La buca del corno. Io stavo attonito, quasi sgomento, in seno alle ombre, preso da quel sentimento di ammirazione che eccitano sempre i grandi spettacoli della natura. Ed era davvero uno spettacolo sorprendente, quel mondo di esseri vivi che si agitava sepolto nelle viscere della terra. O sorrida o minacci, o rallegri o spaventi, in ciò che chiamiamo bello e in ciò che diciamo orrido, la natura è sempre ammirabile, è sempre una grande rivelazione di colui che sta sopra la natura. Il sentimento ond'ero compreso in seno a quella caverna si rassomigliava affatto, non dubito di affermarlo, a quello che provai quando nel cuore delle Alpi sedetti sopra una rupe perduta come isola in un mare di ghiaccio. Quando spianai la prima volta lo sguardo sul mare, quando lungo tempo sdraiato sull'orlo cadente del cratere, ascoltavo a misurati intervalli i rantoli del Vesuvio e vedevo scoppiare dalle sue fauci spalancate un globo compatto di fumo nero con un getto di pietre nere e di scorie infocate. Antonio Stoppani.